Ciao a tutte le compagne e i compagni, questa trasmissione Loccia alla guerra verrà registrata per causa Covid. E sì, questa mattina il sottoscritto è venuto a conoscenza di essere positivo. È normale che, come devo dire, la necessità di dare continuità, diciamo, una voce dell'opposizione, dare continuità all'opposizione in questo contesto in cui, ecco, noi diciamo, vediamo un continuo elogio alla guerra, un continuo elogio all'armarsi, ad armarsi, un continuo elogio al senso di nazionalismo, di patriottismo e via dicendo. E qua non parliamo di Zelensky. Parliamo della nazione italiota che, diciamo, in questo periodo sta distinguendo per questo modo, ecco, di elogio alla guerra, tant'è vero che ecco, noi abbiamo dichiarato dallo stato di emergenza Covid, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza guerra, dopo aver dichiarato guerra alla Russia. Ed è normale che, diciamo, è importante, ognuno nel suo piccolo, cominciare a dare un contributo per avere un'interpretazione, di quel che sta succedendo, di quel che succederà, ma anche cominciare a dare, alcune controinformazioni oppure delle, contronarrazioni, perché noi, ecco, diciamo, abbiamo sempre detto che la guerra, oltre alle vite umane, determina un'altra vittima, l'informazione. Ed è normale che qua, come abbiamo detto anche in un precedente contributo, qua lungi da noi a fare il tifo, per chi che sia, perché vedere le immagini di bambini, di donne che scappano, gli esodi. E sono cose che ormai ci straziano il cuore, dai palestinesi, i curdi, gli yemeniti, gli afghani, i siriani e ora anche queste, diciamo, gli ucraini, insomma. È chiaro che questo lacera i nostri cuori, ci mancherebbe altro. Però è importante anche determinare ecco, noi abbiamo il dovere pure di dare un'informazione politica, di capire che sta succedendo, cosa succederà e perché, diciamo, si è arrivati in questo scenario che però, ecco, noi da parecchio lo stiamo denunciando. Oggi paradossalmente è anche l'anniversario della morte di Francesco Lorusso, sparato a Bologna nel 77, l'11 marzo del 77. Domani sarà un altro ricordo, il 12 marzo del 77, un'altra grande giornata di opposizione, di mobilitazione. E che dire, ecco, riecheggiare di quelle giornate, o sarà il Covid, non lo so che cavolo sarà per me, ecco, mi ha riportato, ecco, oggi a quell'11 marzo, a quel 12 marzo con Cossiga, quando Cossiga in quel periodo, ecco, inneggiava alla necessità che ci volevano, gli alpini, perché è bene sempre ricordare che in Italia c'è stata una guerra civile di bassa intensità, ma c'è stata, quindi non erano i pochi gruppetti radical chic come il Partito Comunista, quella la CGIL di Lama, che nessuno l'ha mai amato, tra l'altro, e diffondevano insieme a qualche regista, diciamo, PDSin, insomma, cioè, è meglio che non diciamo neanche il nome, però Becero. Diciamo, ecco perché all'epoca, ecco, quando Cossiga diceva ci vogliono gli alpini, ora gli alpini sono i nostri protagonisti, di cui uno gestisce una crisi, c'è un alpino che deve gestire la crisi sanitaria. Poi abbiamo un capo di Stato Maggiore dell'Europa, che qua ormai fanno tutti articoli che inneggiano all'elmetto, inneggiano alla guerra, inneggiano alla patria, agli eroi. Cioè stiamo assistendo, per ciò che riguarda la nostra nazione italiota, un qualche cosa, insomma, gli alpini. Non a caso Cossiga 77, alpini, diciamo 2000. 2022, armi che mandiamo, soldi che mandiamo, e il PNRR che fine farà? Si riapriranno le centrali a carbone, si sta parlando di nucleare civile e nello stesso tempo stiamo assistendo allo sdoganamento dell'uso della parola armi nucleari, armi batteriologiche, cioè questi sono proprio dei pazzi, dei folli, ed ecco perché è importante fermare questa assurda follia. Ma anche da un punto di vista culturale, quindi perciò necessitano di controcultura, di contromobilitazione, di opposizione, di narrazione altra. E a questo punto, Mosera, come ho detto prima, il Covid, mi ricordo. Ecco, qua parliamo del 1967, non che c'ero io ancora, no, di una canzone di un gruppo musicale dei Giganti, che diciamo parliamo del 67, quindi prima del 68, che diciamo in una canzone proposta si chiama. E questa canzone esprimeva quel che diciamo stava cominciando a germogliare: la rabbia giovanile, la rabbia studentesca, la rabbia operaia, il rifiuto della guerra, ricordiamoci il Vietnam, il rifiuto diciamo di una vita basata sull'atomica, sull'inquinamento ambientale e via dicendo. Ora facciamo sentire questa canzone. Ricordatevi, Gigante, un gruppo musicale, e la canzone è proposta del 1967. Scusatemi, un po' di problemi. Un attimo. Della loro città cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Cos'hai da dire con tua proposta? Mi chiami Brambilla e volo operare da ore la chiesa per pochi denari, e non c'ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Noi con le malate, manotte musicali, che formino gli accordi per una ballata di pace. Cosa non sei soddisfatto? Ho quasi 20 anni e vendo giornali, girando i quartieri, fra povera gente che vive come me, che sogna come me. Sono un pittore che non vende quadri, dipingo soltanto l'amore che vedo e ho la società, non chiedo che la mia. La mia famiglia è di gente bene, con mamma non parlo, col vecchio nemmeno. Lui mette le mie camicie e poi mi critica se vesto così. Guadagno la vita lontano da casa perché ho rinunciato ad un posto tranquillo. Ora mi dite che ho degli impegni che mio padre ha preso per me. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché loro non vogliono la cena. Molecole malate, ma note musicali, che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei vostri cannoni. Ecco, ora, diciamo, visti i miei potenti mezzi, diciamo, può sembrare strano, però parliamo del 1967, diciamo. Diciamo 20 anni prima c'era stata la liberazione del nazifascismo, dal nazifascismo in Italia, otto partigiani, e la liberazione dell'Armata Rossa dal nazifascismo. Quindi noi parliamo diciamo di quel periodo, che diciamo, ecco, cominciava ad aprirsi, ecco, dalle lotte pacifiste in America e via dicendo, cominciava anche ad infondere in Italia, diciamo, a circolare ciò che poi abbiamo avuto nel maggio 68 francese, abbiamo avuto il 69 operaio, abbiamo avuto gli anni 70, e l'antiimperialismo era, diciamo, il caposaldo di questo movimento. Ora ci risentiamo fra poco. Riprendiamo diciamo la trasmissione. Una cosa è da dire, invece ho detto 2022, invece sarà il Covid, va bene. E la questione è appunto questa canzone, e le aspirazioni di un'umanità che da 67 in poi, ecco, fu un'arma, fu un qualche cosa di rompente in tutto il mondo, le lotte contro il liberalismo americano per la guerra nel Vietnam, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, fino ai nostri giorni. Ecco, un'altra, qua parliamo di guerra, e vediamo la dichiarazione di guerra, diciamo, ecco, non voglio esagerare, e quel che è successo ieri a Torino, diciamo, questo è decreto semplificazione di Draghi, cioè decreto semplificazione significa che non accetterà nessun intoppo al programma reazionario che sta dietro i ricorri Found, eccetera, eccetera. E l'arresto dei compagni Giorgio e Umberto, che sono i compagni, diciamo, della Scatasuna di Torino, come movimenti del Notav, e insieme ai loro due compagni sono stati portati in carcere, e 11, poi altre 11 misure cautelari tra arresti domiciliari, obblighi di firma e divieti di dimora. E tutto ciò riguarda quelle manifestazioni che sono avvenute nell'estate del 2020 in Val Clarès, San Didero. E quindi diciamo sono state perquisite le case degli attivisti, dell'attivista del presidente Notav, dei Mulini, San Didero, pure i centri sociali a Scatasuna e l'altro centro sociale come si chiama, il Neruda mi pare, è una cosa del genere. Ma quello che è, al di là della questione del Notav, e al suo compagno, ai compagni della Scatasuna, ci fu una volta diciamo a Torino un'azione contro gli spacciatori, contro lo spaccio d'eroina. Diciamo gli spacciatori d'eroina furono allontanati. E in più ci sta, diciamo, questa cosa non l'hanno digerita, così come non hanno digerito le varie espressioni di disagio sociale nei quartieri, e non digeriscono che i compagni della Scatasuna vogliono canalizzare la rabbia di questa gioventù dei quartieri, gioventù sottoproletaria, gioventù precaria. E questo sta anche nei capi di imputazione. Ecco, diciamo, queste storie qua. Poi è chiaro che, diciamo, proprio per ritornare pure al nostro, come devo dire, al tema di questa discussione, elogio alla guerra. Abbiamo visto come, diciamo, abbiamo già detto prima, ci eravamo dimenticati, ci siamo dimenticati anche di quello che è Letta che ha detto purtroppo ci siamo dovuti limitare alle sanzioni, ci siamo dovuti limitare ad inviare gli armamenti agli ucraini. Cioè è una cosa diciamo che questo è un incosciente, insomma, cioè non si rende conto che queste parole hanno sono di un'interpretazione, diciamo, di una pericolosità enorme, insomma. Quindi ecco perché, diciamo, noi abbiamo posto questa trasmissione sul tema elogio alla guerra. Ma diciamo, quel che sorprende anche è che, diciamo, su questa lunghezza d'onda c'è il governo, ricordiamo, di centrosinistra tedesco, c'è la Finlandia, che, diciamo, tutti non solo istigano alla guerra, ma diciamo, hanno promesso di aumentare gli investimenti nella produzione di armi. Allora, così come un altro aspetto che fa molto preoccupare, sia la Germania che il Belgio avevano deciso di chiudere le centrali nucleari. Le centrali nucleari non chiuderanno, la chiusura sarà rinviata. Noi stiamo parlando della Germania, e questo, diciamo, dove i Verdi politicamente hanno un peso, hanno votato e hanno sostenuto, così come, diciamo, il Parlamento dell'Unione Europea ha votato l'invio di armi la prima volta che è successo, con il voto unanime di tutti, compreso i Verdi. Allora, il ragionamento fa preoccupare. Allora, non solo si è violato un articolo importante della Costituzione di quella dell'Unione Europea del 51, quindi che doveva essere un organo che rifiutava la pace, la guerra senza se e senza ma, il ripristino della politica per, diciamo, per regolare i conflitti e le relazioni politiche. Noi abbiamo ancora ulteriormente violato l'articolo 11 e vediamo un'altra faccenda. E quando diciamo l'elogio alla guerra, io ieri ho visto una, ma così sono tutte le trasmissioni, ma quei mezzi informazione così che si appellano sempre al garantismo, alla libertà di espressione, alla libertà per dire, non hanno detto nulla sulla censura della RAI italiana di riportare informazione dell'Unione Sovietica, della Russia. Allora, ieri, per dire, in una trasmissione una persona ha mandato un video per un cellulare che faceva vedere che diceva il giornale, un telegiornale russo. Allora, guardate, è una cosa che, vabbè, siamo d'accordo, diciamo, quando degli stati sono in guerra prevale la comunicazione di guerra, per cui non ci sta nessun morto, non ci sta nessuna distruzione e via dicendo. Però il ridicolizzare, il continuo ridicolizzare a chi pone dei dubbi, e quello sta succedendo in tutte le trasmissioni, da quelle avanzate a quelle, diciamo, più retro, mentre quelle più retro, storicamente conservatori di destra, eccetera eccetera, è, diciamo, nulla questo. Ma quanto vediamo, queste dagli organi della stampa cartacea e organi televisivi, che, diciamo, in un modo arrogante portano a ridicolizzare chi parla di ripristino della politica come forma di risoluzione dei conflitti, quando si ridicolizzano tutte quelle forme culturali in cui dicono, ma scusate, ma vi rendete conto che qua, se continuiamo così, non sappiamo dove arriviamo? Qua si parla di armi nucleari, si parla di nucleare civile, si parla di questo, si parla di quest'altro, e ridicolizzavano. Così come quando uno poneva, quando si pone il problema perché siamo arrivati a questa situazione, allora subito uno viene tacciato, tu sei pro Putin. Come la questione, se uno poneva un problema sul Covid, dice no, tu sei Novax. Allora, siamo in una situazione, informazione da regime, sì, da regime, colorato di rosa, colorato di pluricolori della bandiera della pace, ci mancherebbe altro, però è far veicolare tutta una serie di interventi, ma anche di questo presidente Zelensky che, diciamo, continua sempre ad incitare al conflitto mondiale. Questa è una forma di responsabilità, vuol dire che lui, il suo popolo, non se ne fotte proprio niente, perché, diciamo, allora, e qua dobbiamo, ecco, cominciare a risalire le cause che hanno portato a tutto ciò, ribadendo, cari compagni e cari compagni, qui andiamo a fare udito per nessuno. Vedere, io per dire, ieri ho visto le facce di queste ragazze, cioè qua abbiamo tante badanti ucraine, si vedeva che erano quelle bambine che da poco sono arrivate in Italia, strazia il cuore, cacchi vi pare, teniamo figli, siamo giovani, siamo adulte, siamo nonne, teniamo creature, teniamo nipotini e via dicendo, non ci dovremmo mai augurare di arrivare in questa situazione, però tutti gli avvenimenti ci stanno ponendo un problema, siamo attenti perché non diamo mai niente per scontato, questo è fondamentale. Allora, il ragionamento, quando parliamo di elogio alla guerra, noi parliamo di un qualcosa che significa che l'Europa civile, no, io quando parlo di citamento elogio alla guerra, ho citato l'Italia, Dabu, la Francia è sempre la grandeur française colonialista e via dicendo. La Germania, la Finlandia, la Svezia. Quelle nazioni, fortunatamente la Finlandia ha detto che non vuole aderire alla NATO, fortunatamente, e mi sembra che anche la Svezia pure diciamo, hanno posto dei problemi, perché ma il problema è che sono proprio questi governi di centro-sinistra che non si rendono conto di quel che stanno combinando, sia in Italia che diciamo, a livello i governi di centro-sinistra e anche queste forze politiche che si richiamano al centro-sinistra. Hanno messo a tacere addirittura la figlia di Spinelli, che era quello, Arturo Spinelli, l'ideatore dell'Unione Europea, l'hanno accusata di essere pro-Putin. Cioè qua stiamo arrivando proprio ai livelli in cui non ci si rende conto, tutti quanti recitano un unico copione. Allora il problema, ecco, sta a noi, ecco, ieri sera al centro abbiamo fatto una riunione, prima della conoscenza della mia positività, per preparare varie iniziative e mobilitazioni su questa situazione. Sta circolando un volantino perché c'è la necessità politica di presenziare e presidiare le piazze su contenuti che siano contenuti di pace, ma non di un pacifismo tout court che poi alla fine tende sempre a legittimare la NATO, l'atlantismo, l'europeismo, di cui ne stiamo vedendo le conseguenze, così come anche il fatto, no? Allora, quando si intervista un giornalista ucraino che deride e sberleffa quei pacifisti che dicono dei nazisti del battaglione Azov, lui con un candore disarmante dice: sono patrioti, e deride. Chiunque pone questo problema e dimentichiamo che ciò che ha prodotto l'esercito ucraino con la distinzione delle sue truppe paramilitari, ben addestrate, ben rifornite, ben armate dalla NATO e dalla CIA, specialmente a Mariupol. Mariupol è quell'altra città che non mi ricordo il nome, dove erano presenti le caserme del battaglione Azov integrato nell'esercito ucraino. Bisogna riflettere su queste due cose. Allora, e quando uno pone il problema, va bene, se sono commessi crimini di guerra siamo d'accordo, perché non arrivare ad una conferenza internazionale di pace in cui si condannano tutti i crimini di guerra? Cominciamo i crimini di guerra contro i palestinesi, contro i curdi, facciamole queste cose, ci mancherebbe altro. I crimini di guerra, a proposito, siamo qua, avvenuti nel Donbass, ricordiamo, 1.750.000 profughi delle regioni del Donbass, 223 bambini uccisi. 223 e decine di migliaia di civile, e si parla addirittura di 57.000 feriti, cioè sono cifre enormi, come devo dire. E tutto ciò era stato denunciato dall'OSCE, dall'ONU, dal Consiglio, dalle Nazioni Unite per ciò che riguarda i diritti umani. Quindi, perché non si parla di questo fatto qua? E se, diciamo, come in ogni guerra è normale che ci stanno, perché guardate, questa è anche una risposta a quando l'imperialismo americano parlava di operazioni chirurgiche, quindi imperialismo degli eserciti americani, israeliani, turchi, com'è che parlano di operazioni chirurgiche? C'è una bomba, è una bomba, non esiste una bomba intelligente, operazioni chirurgiche non esistono. Ecco perché, allora, se Putin sta commettendo crimini di guerra, deve essere condannato per crimini di guerra, ma in un contesto in cui diciamo, internazionale, perché ricordiamo, ieri l'Afghanistan, l'altro ieri la Siria, l'Afghanistan ieri, oggi diciamo in Ucraina, poi avremo nell'area Indo-Pacifica, perché là ci sta la questione del, diciamo, in funzione anticinese, che il Giappone, come Kiev, vuole mettere sul proprio territorio, ha già ratificato l'accordo per missili puntati contro la Cina e la Corea del Nord, proprio di fronte, insomma. Quindi, lo scenario mondiale non finisce qua, questo parliamo da un punto di vista militare. Allora, così come, ecco, il pericolo, ecco perché l'elogio alla guerra, al nazionalismo, al patriottismo, a tutte queste, scusatemi il termine, queste merdate, allora sono pericolose. Ecco, noi abbiamo i miti, noi siamo le nazioni civili, i popoli civili. Ormai sono circondati, stanno in mezzo a una tenaglia tra le mire del grande sultanato turco, la grande Israele, i maggiori, tutta l'Europa dell'est, quelli del gruppo Visegrad, ricordiamo che come l'Ucraina, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, hanno elementi nazifascisti che governano, e noi daremo a questi le armi, no? Quasi 1 miliardo di euro di armi sono andate a finire in Ucraina. Allora, quindi abbiamo una situazione in cui il concetto di civiltà, il senso civico della convivenza tra i popoli sta per essere veramente buttato nel cesso, sta per essere veramente soppiantato, per dare la parola alle armi, a chi comanda di più, quello, diciamo, ha ragione, a chi ha più forza, quello ha ragione. Così come anche la questione della corsa al riarmo, a me ha dato senso la Germania, la stessa Finlandia, ma quella della Svezia pure vogliono investire sulle armi. Poi il nostro, l'italiota Draghi, ha promesso pure lui maggiori investimenti nelle armi. Allora, quindi, il quadro politico, ecco perché è importante riflettere. Noi da tempo che stiamo lanciando gli allarmi, da quando, cioè dal fine Obama con la falca Clinton, e noi sappiamo bene Libia, Siria, a Trump, e noi sappiamo bene, quindi grande sultanato, la grande Israele, a Biden che vuole portare a compimento ciò che la Clinton aveva iniziato e via dicendo contro la Russia. Allora, ecco, cosa ci rimane? Ci rimane che è fondamentale, è chiaro che il rifiuto della guerra, di ogni guerra, senza se e senza ma, ovunque e dovunque, come sta scritto pure nel volantino che sta circolando, perché la guerra è una merda, questo detto, diciamo, in modo così, tout court. Quindi è importante rilanciare un dibattito, è importante che i compagni riflettino, e noi quando c'è stato il G20 in Puglia, perché qua arriviamo alla questione energetica, allora, alcune cose sono state ratificate in Italia, l'Italia non è esente da colpi, cosa ci faceva il ministro degli esteri israeliani non a Bari, ma dove ci sta il TAP? Mica là non è, cioè là è deserto, ci sta lì, cioè, no, perché allora già nei progetti la pianificazione, diciamo, di far arrivare il gas che noi dovremmo pagare in euro, il gas americano, Emirati Arabi e israeliane, e noi dovremmo pagheremo in dollari, andremo a pagare, diciamo, le fonti energetiche 3 volte tante di quelle che noi paghiamo ora. E poi ci sta un'altra questione, ecco, lo stato di militarizzazione. Quello che è successo a Torino potrebbe essere un esempio, perché quando si parla di stato di militarizzazione per la guerra e quando si parla di energia, quindi la riapertura delle centrali a carbone che devono essere chiuse entro il 2025, il fossile, l'olio, cioè la questione del nucleare civile, Allora, ed è normale che lo stato di militare, che significa? Che tutte, dalle centrali a Corbone, alle trivelle, diventeranno tutti presidi, perché strategici militari. Questa è la faccenda. No? E poi perché questi debbono continuare in questo percorso di restaurazione di tutto l'apparato economico, economico, politico e finanziario, dove il ruolo delle armi e il finanziamento alle armi, all'uso della digitalizzazione, ecco, le armi intelligenti, drone contro drone, turco-israeliano, eccetera, eccetera. Allora, dove andranno a finire i soldi che poi noi saremo costretti a ripagare con un caro prezzo, e dove vanno a finire? Invece andare nelle tasche della gente, contro la precarietà, contro la disoccupazione, ma per difendere seriamente la salute e l'ambiente, andranno a finire. Centrale a carbone, si sta sdoganando il centrale nucleare civile, e addirittura, ecco, l'elogio alla guerra. Questi parlano con una nonchalance di armi batteriologiche e uso di nucleare militare. Scusatemi, cari compagni e compagne, dal mio Covid che mi sto passando a casa, un saluto a tutte, a tutte e a tutti i compagni. Alla prossima. Sperando dal centro sociale, spero che sto buono. Arrivederci.